guarda quante nuvole nel cielo che sorridono. Andiamo a curiosare fra le nuvole, potrò più facilmente dirti baciami, baciami. Sembrerà più bello questo meraviglioso amore avvolto nell'azzurro. Le stelle accorreranno tutte attorno a me, attratte dall'immensa mia felicità. Io quella più splendente ti regalerò, magico simbolo del nostro amore. Quando nei tuoi occhi la luna mi rispecchierà, certo tu potrai far prigioniera la mia immagine. Con facilità, chiudendo gli occhi soltanto così. Giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, certo tu potrai far prigioniera la mia immagine, con facilità, chiudendo gli occhi soltanto, e resterò.